Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Il suo romanzo più famoso è L'ombra del vento, bestseller nel 2001 con 1,5 milioni di copie vendute solo in Italia. Carlos Ruiz Zafón ha poi scritto altri due volumi della tetralogia del cimitero dei libri dimenticati, Il gioco dell'angelo e Il prigioniero del cielo. Ora è in libreria con il quarto e ultimo volume della saga, Il labirinto degli spiriti, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Bruno Arpaia. E a 15 anni dal primo volume della saga abbiamo chiesto all'autore se fin dall'inizio aveva chiaro il progetto dei quattro libri o si è cambiato idea in corsa. Sentiamo Zafón con la traduzione in presa diretta di Paolo Maria Noseda. Well, I did have the idea of the four books. I had the idea of the original architecture of the story. Beh, devo dire che l'idea di fare quattro libri certamente ce l'avevo già. Ovviamente avevo anche pensato a quella che potesse essere la struttura architettonica originale della mia trama, cioè avevo in mente un incipit, avevo in mente ovviamente un finale e una serie di stazioni intermedie nell'ambito di questo percorso che mi avrebbe guidato dall'inizio alla fine dei miei libri. Tuttavia però mi rendevo anche assolutamente conto che avrei impiegato degli anni per completare questa serie di libri e quindi sarei stato soggetto all'evoluzione come scrittore e come uomo. Io ho cercato di essere il più professionale possibile, nel senso che ho cercato di dare ai miei lettori più possibilità e più angoli, più punti di vista, ovviamente tenendo in considerazione, sapevo benissimo che qualsiasi cambiamento avessi apportato al mio lavoro avrebbe provocato un effetto valanga, nel senso che sarebbe poi sfociato in una serie di ramificazioni a volte anche inaspettate. Alla fine certamente il processo, come ripeto, è risultato essere organico, però un processo risulta organico solo e esclusivamente se prima hai lavorato sulla struttura e sull'architettura, come succede nella condizione di costruire un manufatto. Previous structure and architecture, otherwise it would have been impossible. In questi quattro libri i personaggi sono diversi, alcuni naturalmente ritornano, altri scompaiono poi nelle puntate successive. Diciamo però un po' che il perno è Daniel, l'abbiamo visto nell'Ombra del Vento, poi abbiamo visto una sorta di prequel nel Gioco dell'Angelo e poi insomma comparire, farlo diventare adulto e così via. C'è ancora il grande mistero della morte di sua madre, è ancora su quello che ha bisogno di indagare? Perché? Well, this is one of the main lines, one of the main themes of the series, and the first. Certo, questa è sempre stata una delle mie linee di ricerca, dei temi che hanno permeato proprio l'intera trilogia e adesso anche quest'ultimo libro. Lo vediamo decisamente nel primo, nell'Ombra del Vento, dove c'è questo personaggio, questo bimbo che ha 4 anni, cerca di ritrovare il viso della mamma perduta che era morta. Il secondo libro rappresenta davvero la summa della ricerca, il libro sull'identità, il libro sul passato e ovviamente si scende ad un livello ancora più personale, nel senso che nella ricerca di questa madre Isabella diventa il personaggio che in un modo o nell'altro incarna questa ricerca, incarna anche tutta una serie di eventi che le sono successi, tragedie per riuscire a cercare e a ritrovare questa verità, la certezza. Però ecco, tutto ciò che la riguarda non lo sentiamo mai narrato da lei in prima persona, ma si parla di Isabella attraverso gli occhi degli altri, attraverso gli occhi di Daniel, attraverso gli occhi di Martini, il suo amico, che ci narra come lui la vede, insomma attraverso gli occhi di tutti i personaggi, ma non è mai lei che parla di se stessa. Ora sì invece siamo arrivati, diciamo, alla verità, e ho sentito forse che in questo libro eravamo proprio arrivati al fondo, nel senso che la risoluzione di tutto erano le sue parole, cioè sentire come lei stessa con le sue stesse parole si autodefinisce, autodescrive con tutte le diversità, le divergenze, le analogie che questo comporta. words what she was feeling and why she did what she did and what happened to her. Senza entrare troppo nei dettagli della trama, naturalmente, si affronta il problema della scomparsa dei bambini durante il franchismo. Ci furono molti scandali in Spagna anche dopo quell'epoca, dopo la fine del franchismo. Perché ha voluto inserire questo elemento e quanto appunto si è ispirato, si è fatto ispirare dalla realtà di quello scandalo enorme? Well, I think one of the themes that this book tries to explore. Questo è anche un altro dei grandi temi che io desideravo esplorare, no? E che è anche un tema che è pervasivo anche negli altri tre libri che io avevo scritto prima, cioè il tema delle vite rubate, il tema che è un tema pervasivo, come dicevo, nell'ambito dell'intero XX secolo, soprattutto per la Spagna, il senso di perdita, il senso di sacrificio, il senso di distruzione e soprattutto come si soddisfa questa pazzia, questo senso di avere un ego smodato o comunque questo senso di avidità, no, che c'era in questo periodo. E ho voluto quindi saperne di più e ho trovato che alcuni elementi di queste storie erano decisamente perfetti per poter enunciare le mie tematiche che riguardavano la distruzione, che riguardavano la vita, che riguardavano il prossimo anche, ma che riguardavano anche ciò che sono gli obiettivi della vita di qualcuno, ciò che uno deve fare o non fare, ma è anche un tema che riguarda noi in generale in Europa, perché per esempio sono storie analoghe che sono successe nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi se da una parte era inevitabile che io parlassi di questa cosa per caratterizzare la nostra storia spagnola, era anche una storia che poteva essere compresa dagli altri, questa appunto idea della vita rubata, delle anime perse. It is all about the stolen lives and what happened to all these lost souls that got destroyed. Aver deciso di collocare da un punto di vista cronologico questo ciclo, diciamo soprattutto negli anni 50 e a seguire, significa inevitabilmente aver ambientato la storia durante il franchismo. Ricordiamo che il franchismo è terminato nel 1975, cioè in un periodo decisamente molto vicino a noi, a volte non ce lo ricordiamo. Ci sono dei personaggi in questi quattro libri che sono più vicini al franchismo di altri. Lei ne ha voluto fare anche una critica politica o preferisce che la letteratura sia separata dalla, appunto, dall'interpretazione politica di quel periodo? Well, I wasn't really trying to write a political story. No, non stavo davvero cercando di scrivere una storia politica, piuttosto una storia morale, nel senso che per me gli elementi chiave della narrazione devono essere le scelte morali che si fanno. Ecco perché, insomma, a un certo momento ho anche dovuto parlare dell'era di Franco e della Spagna nel corso dell'era di Franco, ma ho cercato di farlo molto cautamente, senza fare sermoni, senza rischiare il dogmatismo. Io non voglio convincere nessuno e non voglio instillare in alcuno nessun tipo di forzata interpretazione su che cosa sia giusto o che cosa non sia giusto. Ci sono già tante altre persone che fanno questo genere di cose. Io sono un narratore e come tale non credo che il mio dovere sia quello né di convincere né di tenere sermoni o fare delle prediche, ma piuttosto quello di cercare attraverso luci diverse, attraverso una drammatizzazione diversa, di invitare i miei lettori a riconsiderare magari alcune delle cose o alcuni dei fatti che loro prendono per scontati, sia dell'epoca, sia le storie, sia il periodo stesso. Ecco, poi ovviamente non ho neanche cercato di fare una cronaca della società all'epoca di Franco, no? Certamente quello è il periodo di fondo, quindi ho cercato di descriverlo nella maniera più onesta e più comprensibile a me possibile, senza mai essere dogmatico, senza mai appunto cercare di tenere sermoni o imporre alle persone alcuni punti di vista. Io ho lasciato i miei lettori liberi di scegliere, per così dire, perché una delle cose che mi interessa è che i miei lettori capiscano il motivo per il quale noi siamo ciò che siamo, e questo è anche quello che interessa a me descrivere come scrittore. Noi siamo ciò che siamo, ma potremmo anche essere varie versioni di ciò che siamo. Siamo noi che scegliamo chi essere oppure no. Ecco, questo per esempio ti spinge a pensare che scegli chi sei sulla base delle circostanze che vivi, e quindi mi interessava esplorare anche questo concetto attraverso e la guerra civile spagnola e attraverso la Seconda Guerra Mondiale, perché sono degli dei fatti e degli avvenimenti che la maggior parte di noi, se non hanno vissuto, conoscono attraverso i racconti, eccetera. E poi perché secondo me questo ti dà una ricchezza di campo e ti dà la possibilità di esplorare appunto questo tipo di argomenti molto più profondamente. A field for a storyteller, for a novelist to explore characters. Ecco, lei dice che i personaggi dei suoi libri devono decidere chi sono, cosa fare, chi essere, la propria identità. Eppure il concetto di destino è molto presente in tutti questi quattro romanzi. Come mette insieme l'ineluttabilità del destino e il fatto che i personaggi possono determinare la loro vita e il loro futuro? Well, I like to think when you create characters or even about our lives as real people. Beh, diciamo che mi piace pensare, no, a tutti i dettagli, alla personalità, alla vita, alla gente vera, insomma, e ovviamente si potrebbe anche asserire che insomma il destino della nostra vita sia già predeterminato, tracciato da chissà chi. Però secondo me la nostra vita è anche un po' come un gioco di carte, o forse più precisamente un poker, nel senso che tu nasci, poi qualcuno ti dà delle carte, alcune sono delle buone carte, altre sono delle carte invece che non potresti usare, però nella maggior parte dei casi insomma è il mix che determina il successo. Alcuni nascono con un 50-50 di possibilità, ad alcuni vengono solo le carte negative, ad altri vengono solo le buone carte e magari hanno una vita più semplice, però per la maggior parte di tutti noi insomma diciamo che riceviamo una mano di carte dove ci sono quelle buone e quelle meno buone. La cosa importante è come te le giochi tu e le scelte che fai nella vita, se tradisci te stesso le tue scelte oppure no. E io in quanto narratore, ecco, voglio riflettere proprio questo concetto dentro le mie storie, voglio cercare di capire, di far capire ai miei lettori che possiamo essere tutti una serie di versioni diverse. Tu puoi avere a disposizione una scelta di varie versioni, la versione che scegli, la scegli tu, la devi scegliere. Ecco, io è come se dicessi a me stesso, ai miei lettori, perché hai scelto di essere proprio quella versione lì. Ecco, l'essere messi davanti a questa diversità, l'essere messi davanti a questa possibilità di scelta, a questo ventaglio di scelta, rende più ricco un romanzo e anche e soprattutto fa risuonare ciò che tu dici nei confronti dei tuoi lettori, perché i tuoi lettori capiscono e si identificano molto meglio. E per me questo, come conseguenza, ha anche il grande ruolo della letteratura, che ha come primo dovere quello di farci migliori e cercare di far migliore il mondo. Poi chi o come o dove siamo è tutt'altra cosa. And to understand the world better and to make us think about why we are who we are. Per finire, una curiosità. Ho letto in un'intervista che il cimitero dei libri dimenticati è un luogo che esiste veramente, nel senso che lei ha preso ispirazione da un luogo vero. E così è, qual è questo luogo? Not really, it does not exist. What happened is a very funny story. No, questo luogo non esiste, devo dire. Le racconto un aneddoto divertente. Barcellona ha un sacco di librerie, eccetera, alcune più belle, altre più brutte, cose di questo genere. Però improvvisamente, chissà perché, a Barcellona tutti i turisti arrivano e spessissimo cominciano a chiedere, e questo già da molto tempo fa, ma dov'è la libreria che ha ispirato appunto il cimitero dei libri perduti? E vanno tutti in questa sedicente libreria, insomma, che non è in effetti la libreria che ha ispirato il cimitero dei libri perduti. Perché, diciamo la verità, se c'è un luogo che ha ispirato la libreria è un negozio abbastanza modernista degli anni 30 che però vende guanti, quindi non ha nulla a che vedere con i libri. Ma questo signore, con una coscienza molto elastica e un senso etico assolutamente ancora più elastico, ha cominciato a dire, quando i turisti e le persone gli chiedevano ma è questa la libreria che ha ispirato il cimitero dei libri perduti, ha cominciato invece che dire no, come facevano onestamente tutti gli altri, a dire di sì. Un giorno però io decido di andare a trovare questo signore, perché addirittura aveva esposto un cartello sulla porta che diceva libreria del cimitero dei libri perduti. Arrivo lì e gli dico buongiorno, io sono Carlo Luis Zaffon. Lui, e lo guardo dritto negli occhi, lui mi sorride gentilissimo, mi fa l'occhiolino e mi dice le dispiace che io mi sia arrogato questo diritto. Gli ho detto beh, insomma, un po' sì, perché lei è un imbroglione, insomma, io non mi sono ispirato alla sua libreria per fare questo libro. Ciò non di meno arriva un momento in cui, siccome il signore era in affitto, scade il contratto d'affitto, che viene poi come dire riaffittato a una boutique, eccetera, e lui se ne va con una scorta di libri, e allora ritira fuori online la stessa storia per vendere le rimanenze dei libri, dicendo che quelli erano i libri che venivano dalla libreria che era stata l'ispirazione del cimitero dei libri perduti. Insomma, a parte non essere etico, a parte essere un gran bugiardo, questo signore, insomma, mi ha in un modo o nell'altro impedito di fare quello che io volevo fare invece con il cimitero dei libri perduti, perché il cimitero dei libri perduti non è una libreria, è qualche cosa che dovrebbe rimanere dentro la mente del lettore, dentro l'immaginazione del lettore, che va ben al di là del semplice concetto di una libreria. It does not, and that's the truth. Questo era Carlos Ruiz Zafón, ora in libreria con Il labirinto degli spiriti, pubblicato da Mondadori, quarto e ultimo volume della saga iniziata con L'ombra del vento. Sunday night, I'm gonna stay home. Monday night, a movie and popcorn. I wanna get those feelings, get those feelings. Alessia Gazzola è tornata in libreria con il suo personaggio seriale Alice Allevi, che studia da anatomopatologa. La vediamo sempre alle prese con omicidi da risolvere, ma anche con le sue turbolente vicende sentimentali. Tra l'altro è andata in onda sulla Rai La Fiction, di cui sentiamo in questo momento la sigla. L'ultimo romanzo si intitola Un po' di follia in primavera, pubblicato da Longanesi. Il titolo riprende una poesia, come ci spiega la stessa Alessia Gazzola. Emily Dickinson è una bellissima poesia. Io sono molto legata a tutta la produzione di Emily Dickinson. E in questo caso, trattandosi di un romanzo in cui tocco l'argomento della psichiatria, del rapporto tra medico e paziente in psichiatria, che può essere un rapporto spesso attraversato da zone d'ombra, no? Allora, essendoci questo termine, la follia, in questa poesia, ho voluto richiamarlo in questo modo. C'è la psichiatria in questo nuovo romanzo in cui è protagonista Alice Allevi, perché la vittima è un famoso psichiatra. Ora non possiamo svelare troppo della trama gialla, insomma, però possiamo iniziare a dire che sicuramente un uomo di potere, un famoso psichiatra, ma forse anche un po' chiacchierato. Sì, perché era un uomo dalla personalità fortissima, un uomo difficile, anche se apparentemente illuminato dal sole, no? Un uomo solare, positivo. In realtà era un uomo con, diciamo, dei poteri speciali sulla mente altrui, senza voler fare però chiaramente spoiler, chiaramente non poteri sovrannaturali, perché non pertengono a quello che è il mio stile. Però era una persona capace di incidere veramente molto sulla vita dei suoi pazienti, non diciamo di più. In questo caso ti sei dovuta quindi un po' documentare? Sì, io per prima sono sinceramente molto affascinata dalla psichiatria, perché comunque la ritengo una disciplina di una nobiltà assoluta, ed è probabilmente quella che richiede al medico la maggiore empatia, perché sai, è semplice empatizzare con i malati oncologici, con i cardiopatici, però le malattie mentali sono sempre stigmatizzate, o meglio, non dico sempre, per carità, non voglio generalizzare, però sono stigmatizzate. Ragione per cui ritengo che lo psichiatra sia un medico che su tutti deve avere determinati requisiti umani. Infatti è una delle frasi che ho segnato nel tuo romanzo, quella appunto del fatto che c'è appunto empatia verso, nei confronti, e compassione nei confronti di altri tipi di malati, ma i malati psichiatrici vengono visti con paura e terrore. Alice, come sempre, insomma, dovrà cercare di risolvere il caso, insomma, alla sua maniera. Alice però in questo nuovo romanzo è un po' cambiata, è un po' cresciuta, anche il suo rapporto con Arthur, l'eterno viaggiatore reporter, sta cambiando. In che modo? Beh, lei cambia perché dal primo romanzo sono trascorsi 5 anni, che corrispondono comunque anche a 5 anni della sua vita. Sarebbe stato macchiettistico lasciarla sempre uguale a se stessa, a non imparare nulla dalle esperienze fatte. e quindi è chiaro che lei ha anche preso qualche randellata dai bei maschi della, che ha conosciuto, e quindi chiaramente è diventata un po' più malinconica, però è sempre a suo modo sognatrice, romantica, sogna a modo suo chiaramente. I personaggi seriali però non sempre evolvono, personaggi seriali di altri scrittori, alcuni vengono un po' cristallizzati e diciamo affrontano diverse avventure di tipo noir, giallo, thriller e così via. La tua Alice invece appunto la vediamo crescere e cambiare, perché? Perché io ho sempre pensato che i miei romanzi non siano dei gialli tout court, no? Perché magari negli esempi, no, che possiamo fare sono prevalentemente romanzi che sono dei gialli in cui c'è la figura del detective di turno a cui naturalmente il pubblico si affeziona. Nel mio caso io invece ritengo che il perno dei miei romanzi sia proprio Alice, sia il suo mondo, siano le sue relazioni, poiché Alice è un medico legale, incidentalmente ha a che fare col crimine, ma il giallo è sempre un po' un pretesto per lei per scoprire qualcosa di sé, e conseguenzialmente è normale che io faccia crescere lei e curi più lei, più ancora della trama cosiddetta gialla. A proposito di dar voce ai personaggi, nella postfazione di questo romanzo hai scritto che è sempre difficile dare la voce ad Arthur, che è il suo fidanzato, reporter, giramondo, che via. Perché è il personaggio più difficile da scrivere? Perché senza ombra di dubbio è il più lontano da me. Io mi sono ispirata a Kapuscinski, a Terzani, no? A queste figure di reporter che molto hanno sacrificato anche della loro vita personale. Era una vera e propria missione quella dello storico per loro, no? Di trovarsi al centro degli eventi per raccontarli comporta un prezzo. Ed è senza ombra di dubbio quindi il personaggio più lontano da me per carattere, per nazionalità, perché io l'ho voluto straniero, per tutte queste motivazioni. Quindi mi è capitato in effetti di apprendere delle cose su Arthur dai lettori oppure da altre persone che hanno lavorato su Arthur, intendo per esempio gli autori della serie televisiva, che mi hanno offerto dei punti di vista su questo personaggio che molto mi hanno aiutato per capirlo io stessa, che sono la mamma, ancora di più. Arriviamo subito alla serie televisiva, ma prima devo farti una domanda su CC, Claudio Conforti, perché lo sappiamo, insomma, Alice ha un debole per lui, hanno avuto un piccolo incontro, una relazione, si punzecchiano a vicenda, insomma, è sempre quella relazione così in sospeso, dove si avverte che c'è sempre una tensione, continua ad essere così? Sì, anche perché quello che a me narrativamente sembra più interessante poi in realtà è quel concetto, no? Richiamando, io sono amante della poesia, magari si capisce, quella poesia di Gozzano che è Cocotte, che dice a un certo punto: non amo che le rose che non colsi. Ecco, per me quella è la chiave del rapporto tra Alice e Cici. Alice se lo potrebbe stampare, tatuare forse questa frase. Sì, assolutamente. E allora veniamo alla serie televisiva che è andata in onda su Rai 1, ha avuto un successo incredibile. Io ho visto i dati d'ascolto, fra il 19 e il 21% di share, anche mentre su altri canali davano programmi molto popolari tipo Il Grande Fratello VIP e così via. Ti aspettavi oggettivamente un successo così forte, così grande? Onestamente no, ma non me lo aspettavo perché io sono una pessimista di natura, non perché tutto sommato ho la razionalità e l'obiettività per capire che il prodotto era veramente confezionato benissimo e quindi che ci fossero tutti i presupposti per andar bene. Detto ciò, però, io sono una che si attapira da sola, quindi... Però per uno scrittore a volte è strano vedere i propri personaggi come se li ha immaginati nella sua testa, con il loro fisico, vederli interpretati in carne e ossa da altri. Tu hai avuto questa sensazione di scollamento o no? No, ma perché io sono stata fortunata, perché a Alessandro Mastronardi e Lino Guanciale sono Alice Cici fatti e finiti. Quindi cioè, c'era una perfetta corrispondenza, sono anche oltre. Ragione per cui io questo scollamento, quantomeno nei miei personaggi principali, io francamente non l'ho avuto. Ci sono chiaramente poi delle altre differenze che però io ho assolutamente capito e approvato, perché sono delle esigenze di messa in scena che a me sono andate bene. La fiction fino adesso è stata tratta dai tuoi due primi romanzi con Alice Allevi. Cosa si farà adesso? Si andrà avanti? Vai. Pare di sì, nel senso che stiamo già scrivendo, anzi stanno scrivendo una seconda serie. Io chiaramente poi avrò come al solito il mio lavoro di supervisione, di insomma co-scrittura. E insomma speriamo che si vada poi in porto, che si vada in produzione. Parrebbe di sì però. Non ci sbilanciamo, io sai, sono quella negativa, quindi... Ah giusto, tu sei quella che si attapira, allora incrociamo le dita, si può dire? No, per carità, cioè io sono sempre sul negativo, la stiamo scrivendo ma non si sa se si farà, cioè io... Beh, del resto un medico legale che sia troppo positivo non va bene, perché tu nella vita sei medico legale. Ma che ti aspetti da una che ha 24 anni sceglie di vedere cadaveri tutti i giorni, che ti aspetti? E questa era Alessia Gazzola, ora in libreria con Un po' di follia in primavera, romanzo con protagonista Licio Levi, pubblicato da Lunganesi. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Valeria Bernardi. Vi ricordiamo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Per essere sempre aggiornati c'è sempre Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.